Io faccio sempre amore fino a tardi e di mattina non mi sveglio mai. Già sempre i primi camion nella strada che arde in un eterno via vai. Ci amiamo fino all'alba senza fretta e la sirena chiama gli operai. Il traffico circonda il nostro letto protetto dai vigili, dai tram, da tutti i guai. In braccio alla compagna di una sera e con la mia chitarra accanto a me, io faccio samba amor la notte intera, perché dovrei pentirmene, perché io faccio samba amore fino a tardi e devo fare tante cose in più. Ascolto il vai e vieni della strada che assorda, ma chi me lo fa far di andare giù? Chissà se sono pigro, son codardo, ma sotto la coperta tornerò. Io faccio sempre amore fino a tardi e per adesso non mi sveglio, non.